È mercoledì 18 dicembre, intanto i titoli, oggi non c'è un titolo che si impone su tutti, ogni giornale fa la propria scelta, Il Sole 24 Ore, svuotato il fondo Cuneo, stop su casa e Consob, questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda della casa è anche riecheggiata da altri quotidiani, Repubblica, casa, rischio stangata nel 2014, per la stampa invece via al fondo taglia tasse. Per il Messaggero, casa e fisco, così si cambia. Il Corriere della Sera invece mette questo incontro tra Nardella e Brunetta. Nardella è collaboratore stretto di Renzi, Brunetta lo conoscete, riforme, trattativa segreta, questo è il titolo di prima pagina del Corriere, che poi viene a chiedersi segretissima, infatti è in prima pagina di un quotidiano. Il Giornale, arrivano i forconi, la marcia su Roma. Mentre il Fatto Quotidiano, Telecom nel caos, Letta sotto accusa, sta con gli spagnoli. Questo è il titolo di prima pagina. La vicenda del calcio scommesse, presunto, ringhia e vinci. Avete sentito? C'è Gennaro Gattuso, Rino Gattuso tra gli indagati ed è questa la prima pagina del Secolo XIX. Mentre Libero ha questa sentenza rivoluzionaria in prima pagina, non pagare la RAI si può. La commissione tributaria del Lazio dà ragione a un cittadino che non versa il canone da anni, aveva chiesto l'oscuramento delle reti, non gli è stato mai risposto con le cartelle esattoriali e ora ha ragione lui. Mentre la vicenda di Lampedusa è la prima pagina di L'Unità e il Manifesto, e voglio partire da qui. Lampedusa, vergogna d'Italia, così titola L'Unità. Mentre il Manifesto titola pulizia etnica, sullo sfondo di quelle immagini che forse avete visto nel TG2 quando una serie di migranti del centro di Lampedusa vengono denudati e vengono investiti da un getto di sostanza che serve a prevenire le malattie. È una polemica che è montata sui giornali, tutti i quotidiani hanno una pagina su questo, il riferimento più duro e devo dire anche esagerato è come in un lager. Non esageriamo, anche se le cose sono gravi, ma sono due situazioni ben diverse e penso che tutti siano d'accordo in questo. Lampedusa, disinfettati come animali, questo è il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 8, oppure Il Corriere della Sera, pagina 15, migranti nudi per la disinfezione, Letta dice faremo pagare i colpevoli. Per la verità il Corriere della Sera è l'unico giornale che riesce a intervistare Cono Galipò. Chi è? È il responsabile della cooperativa che gestisce il centro di Lampedusa. Viene intervistato da Felice Cavallaro a pagina 15 del Corriere e lui si difende. È il protocollo da seguire quando si spruzza un prodotto come il benzoato di benzina. Benzina? È un derivato, è un prodotto venduto in farmacia, mica il DDT o il gas. Va diluito e con perizia distribuito sul corpo, ma preferiamo nebulizzare lo stesso getto in modo da evitare rossori, bruciature, effetti collaterali. Tutto questo serve per evitare l'insorgere di malattie, manifestazioni fastidiose, a cominciare dalla scabbia, pruriti, rischio di fenomeni simili. Ma dicono che nessuno ha la scabbia. Che bisogno c'è? Chiede il Corriere. Questo è stabilito dai protocolli medici. Noi eseguiamo un'indicazione delle autorità sanitarie. E basta con questa storia del lager, perché il filmato che si è visto in TV falsa tutto. Non dovremmo fidarci di quel che si vede? Chiede Cavallaro. Quel che appare risponde, confonde la realtà e confonde chi poi commenta i fatti che non sono reali. Non potete metterci alla gogna per qualche sequenza che non può dire nulla su quello che facciamo realmente tutti noi per i migranti. La realtà è un'altra. Non è affatto così quello che dite. Ma è ancora qui il Corriere incalza, ma è reale che i ragazzi nudi nel video vengono sottoposti a queste strane docce davanti a tutti, gli abiti per terra, gli occhi di tutti su quello di turno, sottogetto che se ne sta con le mani sui genitali per pudore? Ma non è affatto così, risponde il responsabile della struttura. Lo spazio in cui tutto si svolge è sostanzialmente protetto dalle pareti degli stessi container. Non è vero che tutti vedono tutto. Abbiamo un container con appena 16 bagni, un container dove quel giorno venivano ospitate 300 persone. Se avessimo spruzzato il benzoato di benzina nelle docce, avremmo fatto correre dei rischi a tutti i migranti. E ancora si difende Kono Galipò dicendo: qui si lavora giorno e notte con un'abnegazione che tutti conoscono, senza mai tirarsi indietro su niente, sempre disponibili, pullman, mezzi, uomini, pronti sul molo per ogni arrivo. No, il video falsa. Così non è, anche se pare, giura Galipò rimodulando Pirandello. Così è, se vi pare, effettivamente le immagini sembrano abbastanza chiare. Lo stesso Letta ha detto sdegnato, la stessa presidente della Camera Boldrini dice: non sono mai titoli da paese civile. Sta di fatto che si difende così, da questo video shock, il responsabile del centro di Lampedusa. Voglio parlare di un'altra notizia prima della pubblicità, che è quella che vede protagonista il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, che certo è intervenuta anche su questo tema, ma oggi è sulle prime pagine dei giornali per una vicenda strettamente personale. Di recente forse avrete letto, non lo so, l'intervista che il marito della Kyenge ha rilasciato a Libero, nella quale ha detto delle parole molto dure nei confronti della moglie, nei confronti del fatto di essere incapace di gestire la cosa pubblica, di essere un po' succube del PD. Insomma, era stato molto molto duro, tanto che qualcuno aveva detto: ai ai ai, qui il sospetto è che ci sia qualche screzio familiare tra i due. Tutto oggi è certificato da Vanity Fair, che intervista il ministro Cécile Kyenge. Per carità, non mi interessa la questione personale e non è importante la questione personale, insomma, se si dovessero separare, come succede per tante famiglie in Italia. Ma Cécile Kyenge ha lanciato nel fare questa intervista un dibattito. Intanto ha confermato dicendo: le parole di mio marito mi hanno molto ferita. Ha detto che passeranno il Natale separati. Ha detto: è un momento difficile, ho sempre avuto una certa capacità di rigenerarmi. Insomma, parla come se fosse già una separata in casa. Ma il tema interessante che lancia un dibattito Cécile Kyenge nell'intervista è questo: tante volte per gli schemi in cui viviamo, se l'uomo ha il controllo economico va tutto bene, se invece a un certo punto la donna si trova col timone in mano, qualcosa nella coppia cambia e chissà quante si riconosceranno in quello che dico. Insomma, dice e fa capire il ministro Cécile Kyenge che il problema di base è perché nella famiglia è lei che è la donna ad avere successo. E infatti La Stampa fa subito una pagina di commento a questo. Il titolo sulla Stampa diventa: Kyenge, se la donna ha il timone la coppia si sfascia. C'è anche un commento in prima pagina di Massimo Gramellini, il titolo è: giochi di ruolo. Il buongiorno di Gramellini è questo: il ministro all'integrazione Kyenge ha raccontato a Vanity Fair la disintegrazione del proprio matrimonio, fatti suoi, se non fosse che la signora ha imputato la crisi coniugale al cambio dei rapporti di forza all'interno della coppia. Il marito l'ha amata finché era una moglie, mamma e oculista, ma appena è diventata una persona di potere ha cominciato a non sopportarla più. Kyenge ha dato voce a un pensiero comune: il matrimonio funziona se la donna comanda, lasciando credere all'uomo di essere lui a farlo, purché lo schema rimanga confinato alle mura di casa. Fuori di lì il maschio non rinuncia al ruolo di prima donna. Il giorno in cui Hillary Clinton sarà presidente degli Stati Uniti e durante i G8 Bill prenderà tranquillamente il tè con le altre first lady, sarà un piccolo passo per lui ma un grande passo per l'umanità. Tutto vero, e però talmente ovvio da risultare perfino troppo facile. Certi matrimoni non vanno in crisi solo perché la donna sale sul piedistallo storicamente riservato all'uomo, ma perché per salirci è costretta a comportarsi come un uomo. Nel mondo del lavoro, infatti, i valori di riferimento sono rimasti quelli maschili: competitività ossessiva, cinismo, smania di potere, concentrazione esclusiva su di sé, il contrario esatto dell'amore. Per secoli troppe donne hanno dovuto vivere accanto a uomini così. Il progresso non consiste nello scambiarsi ruoli, ma nel cambiare il gioco. Così Massimo Gramellini. Vabbè, insomma, per l'ennesima volta Cécile Kyenge, partendo da una vicenda personale, finisce sulle prime pagine dei giornali lanciando questo dibattito. C'è ancora spazio per raccontarvi questo prima della pubblicità, vale a dire la prima pagina di Libero, la prima pagina con un titolo un po' strano. Non pagare la RAI si può. Beh, ma questo è già il titolo, è molto molto particolare. È una vicenda, come racconta Matteo Mion in prima pagina e poi continua a pagina 3, una vicenda che riguarda un signore che da tanti anni ha chiesto, come fanno alcune persone, di recedere dal contratto della RAI, di non pagare il canone. Per cui che cosa succede a questo punto? Ci dovrebbe essere tutta una procedura, cos'è? Vengono a piombare tutti gli strumenti che ricevono potenzialmente la RAI, eccetera, cioè i canali televisivi tutti. Ma questo signore, siccome non ha mai ricevuto risposta dalla RAI, a un certo punto si è sentito in dovere dire vabbè, allora io non pago più il canone, e la Commissione Tributaria del Lazio ha dato ragione a questo signore. La sentenza si può non pagare la RAI, la Commissione Tributaria del Lazio dà ragione a un cittadino che non versa il canone da anni, ha chiesto alla TV di Stato di oscurare i canali, non gli è stato mai risposto e ora lui, secondo questa commissione, non ha più alcun obbligo di versare il canone. In qualche modo dice: non mi hanno più risposto, allora io non pago più. E c'è una sentenza che dà ragione a questo signore. Da qui il titolo: non pagare la RAI si può, una sentenza definita da Libero in prima pagina rivoluzionaria. Staremo a vedere. Ripartiamo dopo la pubblicità dall'attualità politica. In primo piano certamente la vicenda del decreto che svuota parzialmente le carceri. Ricordo che il ministro Anna Maria Cancellieri sarà nostra ospite alle 8:15 e allora ripartiamo da qui tra poco. Allora, 7:33 minuti, il decreto svuota carceri. Questo è un tema politico perché ovviamente nell'opinione pubblica viene considerato come un qualcosa di molto molto sconveniente quando la politica tocca questo tema. C'è stato un decreto anti-affollamento. Cancellieri, il ministro, che poi sentiremo alle 8:15 in diretta, dice: nessun automatismo, saranno fuori 1700. Come racconta Donatella Stasio a pagina 13 del Sole, l'abbiamo sentita anche nel nostro giornale radio, non chiamatelo indulto e nemmeno indultino, così si è raccomandata al ministro della giustizia Cancellieri, preoccupata dalla reazione dell'opinione pubblica, delle forze politiche pronte a cavalcarla, perché è invece una liberazione anticipata speciale. In pratica c'è uno sconto di pena di ulteriori 30 giorni rispetto ai 45 previsti già per ogni semestre di detenzione e per ogni reato. Sì, perché c'è questa situazione in carcere per chi si comporta bene e chi non commette, diciamo, atti poco disciplinati, l'anno in carcere già dura meno, dura 90 giorni, ogni semestre si scalano 45 giorni, quindi dura 90 giorni in meno. Ora durerà 90 più 30 giorni in meno e quindi 120 giorni in meno, in pratica durerà 7 mesi, un anno in carcere. Ovviamente, dice il ministro, ci sarà però una valutazione del giudice e quindi non è un automatismo di fare uscire tutti. Anche lo stesso premier Nicoletta ha precisato: la sicurezza dei cittadini non è in pericolo. Questo viene sempre detto perché chiaramente il tema è molto dibattuto. Il sovraffollamento delle carceri è un problema che è un problema grave, ma è pochissimo sentito dalla gente comune e quindi quando si prendono questi provvedimenti c'è sempre il rischio di fare qualcosa di impopolare dal punto di vista politico. Tra l'altro, questa decisione ha comportato uno scontro politico certificato da tutti i giornali tra il ministro stesso Cancellieri e comunque il governo Letta e Alfano. Alfano ha cercato di frenare questo decreto fino all'ultimo, tanto che tutti i giornali lo raccontano. Alfano prova a bloccare tutto. Questo è il titolo di pagina 3 del Messaggero. Ma Letta sbotta, ora voglio i fatti. Insomma, Alfano ha cercato di bloccare questo tentativo. L'ultima resistenza di Alfano, questo è il titolo di Repubblica, pagina 7. Liana Milella, andava cambiata la custodia cautelare. Racconta Repubblica con Milella: ci sono conferenze stampa in cui si contano le presenze in quella di ieri a Palazzo Chigi ha contato soprattutto un'assenza, quella di Angelino Alfano. Proprio lui, il vice premier, ministro dell'interno, per giunta un presenzialista, stavolta invece rinuncia alla ribalta, lascia che addossarsi il peso mediatico delle possibili imminenti scarcerazioni siano Letta e Anna Maria Cancellieri. È una riforma che Napolitano più volte ha segnalato come necessaria, scrive Repubblica, ma Alfano ha remato contro e quindi questo spiegato lo stop and go sul decreto. Ma Anna Maria Cancellieri, racconta nel Consiglio dei Ministri, ha martellato: non accetto un ulteriore rinvio dopo i tanti che ci sono già stati, il testo deve passare oggi. Insomma, è stato un braccio di ferro dal punto di vista politico la spuntata Anna Maria Cancellieri. Tra l'altro torna anche la questione del braccialetto elettronico solo per i domiciliari, racconta il Corriere della Sera in un commento di Luigi Ferrarella. I punti oscuri delle costose cavigliere, si ricorda questa frase di l'immortale giudizio del vice capo della polizia Cirillo, che disse: fossimo andati da Bulgari per questi braccialetti avremmo speso meno. Eppure, nonostante le spese finora di 55 braccialetti con 80 milioni di euro spesi dal 2001 certificati, nonostante tutto ciò, il braccialetto elettronico, che poi in realtà è una cavigliera idrorepellente, impermeabile, resistente a 70 gradi di temperatura, 40 kg di forza di strappo, torna in auge e potrebbe essere utilizzato. Allora, questo è il decreto salva carceri. Comunque alle 8.15 ne parliamo col ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e vedremo che cosa ha da dirci su questo tema. Legato a questa vicenda diciamo di giustizia, vi segnalo un'intervista che Pietro Grasso fa a Repubblica. Repubblica ieri ha intervistato, ha raccontato Nino Di Matteo, questo PM che è minacciato in persona da Riina, e oggi Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano fa una lunga, lunghissima intervista che vi segnalo e vi consiglio di leggere. Riina mi vuole morto e i politici attaccano le nostre indagini. Una lunga, densissima intervista di Marco Travaglio al PM più minacciato in questo momento, Nino Di Matteo. Ebbene, sentite cosa ha detto Pietro Grasso, intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica, riguardo alla questione della mafia, un tema che spesso in passato è stato detto anche da Berlusconi. Questa frase aveva creato molte polemiche. Torna sulla questione delle fiction antimafia. Pietro Grasso: sono dannose. Le fiction sulla mafia presentano due problemi: da un lato trasformare il poliziotto antimafia in una specie di Superman e quindi indurre l'idea che la lotta alla mafia la fanno solo i supereroi; l'altro problema è quello di mitizzare il mafioso. Io non dimentico qualche ragazzo cinico a Palermo che mi ha detto: sì, però il poliziotto muore mentre il mafioso al massimo finisce la vita in galera. E tra l'altro, dice Pietro Grasso, secondo me Totò Riina è un perdente, credo che lo sia anche agli occhi dei suoi, perché la sua strategia è fallita. E poi io ho ancora qui sul gozzo la storia del capo dei capi, di quel ragazzino di 17 anni, capo di una piccola banda a Milano, che teneva in tasca i ritagli della fiction Il capo dei capi. Insomma, non ce l'ha, poi parla d'altro, di attualità politica, ma questa è la frase che farà più discutere, la vicenda di Pietro Grasso che si scaglia contro le fiction antimafia. Vabbè, c'è tutta l'attualità politica. L'attualità politica, oggi è il giorno dei forconi, o cosiddetto, vedremo come andrà a Roma. I giornali ne parlano, ma insomma staremo a vedere. Speriamo che sia una giornata senza problemi. La giornata politica invece è legata a due personaggi, Renzi, soprattutto Renzi. Secondo il Corriere della Sera, questa è la retroscena più interessante. Eppur si muove, qualcosa si muove. Il titolo di prima pagina del Corriere: riforme, trattativa segreta. Che poi segreta è talmente segreta che è in prima pagina del Corriere della Sera. Ma insomma, la questione è questa: si sarebbero visti ieri, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere, l'ex vice sindaco di Firenze, ora onorevole molto vicino a Renzi, Dario Nardella del PD, e Renato Brunetta. Si sono visti, racconta il Corriere, approfittando della situazione rilassata e approfittando del caos di Natale per un caffè alla caffetteria di Piazza di Pietra. aria apparentemente rilassata, eccolo qui, l'emissario di Renzi, Nardella, incontra Renato Brunetta per cercare di capire se sul Mattarellum ci può essere un accordo. Chi lo sa, se sono rose, fioriranno. Sta di fatto che secondo il giornale Renzi punta ancora alla rimpasto di governo, sfida infatti Quirinale e Letta, così racconta Gian Maria De Francesco sul giornale a pagina 3, subito il rimpasto di governo, sarebbero nel mirino di Renzi. Anna Maria Cancellieri, e non è un mistero, soprattutto dopo la vicenda Ligresti, la molto criticata, Emma Bonino, ministro degli esteri, ma anche il ministro al lavoro Enrico Giovannini. Questo sarebbe nel mirino di Matteo Renzi. Addirittura nel mirino di Matteo Renzi sarebbe, secondo il Fatto Quotidiano, Napolitano, tanto che il titolo e l'articolo di Antonello Caporale a pagina 14 è: carissimi nemici, il prossimo rottamato sarà proprio Giorgio Napolitano. Si prende spunto dal fatto che al ricevimento al Quirinale Renzi, avete visto, è andato via prima della fine, poi si è vestito, udite udite, si è vestito in chiaro, quando l'etichetta impone di vestirsi con una grisaglia, e invece lui no. Caro Mauro Meazza del Sole 24 Ore, sono errori che non si fanno, tu non ti vestiresti mai in chiaro ricevuto al Quirinale in quell'occasione? No, penso di no, bisogna anche vedere che cosa c'hai nell'armadio, però magari il vestito buono era da lavare. No, ma io mi interrogo sempre su questa politica che va a vedere il fatto che Matteo Renzi si è vestito in chiaro quando tutti Ma magari la tintoria ha fatto tardi a restituire il vestito, non possiamo e adesso... tutti noi invece qua a raccontare del retroscena. Infatti, ma tu lo mangi il panettone, Alessandro? Io sì, ma Letta mangia anche quello dell'anno prossimo, ha detto, e queste cose si è un po' buttato in avanti, diciamo così. Senti, io penso che mangerò il panettone leggendo la legge di stabilità. Sperando di digerirlo a quel punto, va bene. Ma insomma, il panettone già non è un dolce, lo dico a beneficio magari degli ascoltatori non padani che lo conoscono meno, non è un dolce leggerissimo, la legge di stabilità... anche quella è potrebbe essere, non so se sia un dolce, ecco, più il dubbio. Comunque oggi sul Sole 24 Ore tutti gli aggiornamenti, arriva questo testo in aula alla Camera, è sparita la mini Tasi, quella che, di cui abbiamo parlato ieri, insomma, l'uno per mille, no, niente, allora non c'è più il tetto dell'uno per mille, insomma, un po' di correzioni varie in salsa mista, le riferiamo con dettaglio sul Sole 24 Ore. E poi vorrei dire, attenzione, Giovanni Parente, no, sezione norme tributi del Sole 24 Ore, il redditometro. Torna il redditometro, nel senso che le entrate stanno preparando un messaggio, una circolare, un qualcosa per farlo ripartire. Sai che si è inopinatamente bloccato sulle obiezioni del garante della privacy, però adesso un pochino si ripiglia. Vediamo quanto, se riusciranno, tra l'altro erano attesi anche dei soldini dalle verifiche da redditometro, non so se poi, come dire, ci sarà modo di recuperarli veramente, mi sembra a questo punto molto difficile. Se non ti basta il redditometro, sì, guarda che oggi con il Sole ti diamo anche 16 pagine sul ricometro. Ah, questo mi piace di più, almeno come termine, no? Tu ti confondi magari fra le due cose. Sicuramente. Ecco, allora, se non vuoi confonderti oggi, prendi il Sole 24 Ore, lo leggi mangiando magari il panettone, insomma, o anche no, e così capisci bene le differenze e come funzionerà specialmente il nuovo ricometro. Col 2014 cambiano un po' tutte le regole per pesare la ricchezza e poi avere diritto ai servizi. Tra l'altro, caro Mauro, tu che parli di panettone, guarda, subito in presa diretta un sms di un ascoltatore dice: sì, ma chi lo paga? Il partito? Ma ormai c'è questa ossessione, ma avrai soldi per comprarsi un misero panettone, Enrico Letta? Non lo so, ma non lo so, insomma, i tuoi 2 euro alla fine potresti anche spendere Un panettoncino, ecco, almeno un piccolo panettone. Così almeno non ci pensiamo più e col 2014 guardiamo avanti, insomma, esatto. Mangiando a pancia piena, mangiando il panettone finché hai 2 euro, e poi dopo si vedrà, insomma, qualche santo provvederà. Magari vai, non lo so, potresti puntare in borsa, hai visto Moncler, è andata molto bene, insomma, ci sono un po' di cose. Non comprarti l'auto, perché vedi che non lo fa quasi più nessuno in Italia, speriamo in imprese e territori. Ci si tiene l'auto che sia. Mauro, io ti ringrazio, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ci ritroviamo domani, poi ripartiamo, insomma, da altre notizie della politica, ma anche del calcio, il calcio che è sempre più legato al calcio scommesse, questo almeno a legge dalle accuse, anche con un'indagine indagato di extra lusso, insomma, Rino Gattuso. Io da ieri che dico non ci posso credere, non ci posso credere. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci, l'ultima parte della rassegna stampa la conduco in ginocchio, se avessi dei ceci li metterei per la troppa e tanta, ma santa pubblicità. Eccoci qua, allora, come detto, cioè, per concludere la vicenda di Matteo Renzi, beh, c'è il cambiamento, ma Matteo Renzi che fa oggi con Angelino Alfano? Va a presentare il libro di Bruno Vespa. Ecco, il retroscena di Amedeo la mattina è questo, oggi presentano il libro del giornalista, il libro di Bruno Vespa, Matteo Renzi e Angelino Alfano. Cambiamento, questo cambiamento un po' si vede a tratti. Detto questo, Berlusconi sta pensando, questa è la notizia più interessante, la da Ugo Magri sulla Stampa come retroscena pagina 7, Berlusconi entusiasta di Renzi, ma soprattutto prepara il lancio di un call center. Udite bene, un call center. E che vuol dire? Sì, secondo la Stampa, e guardate che Ugo Magri in genere è molto molto bene informato di quello che succede attorno all'entourage di Silvio Berlusconi, avrebbe già indicato come deus ex machina di questa operazione la fedelissima Maria Rosaria Rossi, onorevole di Forza Italia, per allestire un gigantesco call center per tempestare l'Italia di telefonate, come se la campagna elettorale fosse già incominciata. Ora voi immaginatevi lì, siete magari, state finendo il cenone, preparando il cenone di Capodanno, vi telefono un call center per raccontarvi le mirabilie di Silvio Berlusconi. E, non lo so, io spero che non succeda a casa mia, spero che non succeda, voglio dire. Però potrebbe succedere, visto che c'è questo gigantesco call center in arrivo. Il calcio... Allora, il nome che ha fatto più scalpore della nuova inchiesta su presunte una trentina di nuove partite con indagini in corso è quello di Rino Gattuso. Io non ci voglio credere. Io non è perché sono milanista, no? Ma è proprio se mi dovessero, per carità, non sono uno di quelli che faccio le verginelle, so che il mondo del calcio, come il mondo dove girano tanti soldi, ci sarà corruzione, ci saranno scommesse, certamente. Ma Rino Gattuso, no, proprio se uno mi dovesse dire Rino Gattuso è l'ultimo che mi immagino che possa vendersi una partita. Ma l'avete presente chi ha seguito il calcio? Rino Gattuso, uno che giustamente anche il Corriere dice non gioca neanche adesso le partitelle tra amici in Calabria perché se perde si incazza da morire e non riesce a dormire due giorni. Ebbene, Alberto Costa, che è giornalista che segue il Milan, segue lo sport per il Corriere della Sera, è andato a intervistarla a pagina 21. Io non saprei perdere, se provano la truffa mi uccido in piazza. Vabbè, ha detto anche questa immagine molto alla Gattuso, ovviamente, no? L'abbiamo sentita anche a Sky, ha telefonato, ma ammazzo in piazza davanti a tutti se provano questa cosa. Ho Baghdad nella testa, così esordisce Rino Gattuso. Un po' ce l'aveva anche nei piedi quando giocava a calcio, ma a parte questo, ho Baghdad nella testa, lo tsunami che lo ha investito senza che lui fiutasse il pericolo. Ma non mi ricordo proprio di questo Bazzani. Lei ha idea di quanta gente ho fatto entrare io a Milanello? Ho dato dei biglietti, ho dato le maglie, sono sempre stato disponibile con tutti. Insomma, è sospettato di aver addomesticato almeno 3 gare della stagione 2010-2011, quella tra l'altro dello scudetto del Milan. Lui che per il suo modo di giocare, tacchetti spianati, bava la bocca, incarna il simbolo dell'agonismo tout court e che oggi si rifiuta di giocare a pallone appunto con gli amici per evitare di perdere perché non accetto la sconfitta, proprio lui dice, ora è accusato, nessuno mi ha mai chiesto di pilotare un risultato, non mi sono mai seduto a un tavolo per pianificare una vittoria o una sconfitta, truccare una partita non è nel mio DNA, non fa parte del mio modo di essere, se venisse dimostrata una cosa del genere non avrebbe più senso vivere, andrei in piazza e mi ammazzerei. Vabbè, insomma, questo Rino Gattuso, anche l'altro accusato, anche lui è abbastanza famoso, non quanto Gattuso, ma è Cristian Brocchi, che il Messaggero sente con Salvatore Riggio a pagina 10 e dice: che rabbia, perquisita la casa davanti ai miei bambini, mi hanno perquisito casa, io non c'ero, c'erano mia moglie e i miei bambini, tra l'altro sarò io a portare il mio computer che non hanno trovato perché ce l'avevo io, ma glielo do senza problemi. Staremo a vedere, siamo al momento però conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, al momento della carta costa, e vince oggi Libero, Libero con Gianluca Veneziani che parla del trionfo della natività, soprattutto della rivincita del presepe. Io lo sapevo, per carità, lunga vita al presepe che ha 790 anni. Fa sapere il quotidiano Libero, 790 anni, il primo realizzato da San Francesco nel 1223. Ma per carità, non voglio apparire irriverente, non voglio apparire irriverente, anch'io a casa ho fatto il presepe, ma chi se ne frega, scriverne mezza pagina su Libero, fate il vostro presepe a casa e non scrivetene sui giornali, perché la carta costa. Ci ritroviamo alle 8:15 col ministro Anna Maria Cancellieri.